personaggi letterari del Falco e il Gabbiano di Enrico Ruggeri. Il Louvre è universalmente riconosciuto come il più famoso museo al mondo, e non solo per le opere d'arte dal valore incommensurabile che ci sono nel suo interno, ma anche per il numero di visitatori. In Francia fanno le cose bene, non sono mica come in Italia, e ogni anno 9 milioni di persone percorrono le sale del Louvre. Poi è il più visitato al mondo anche perché tra le opere esposte, per esempio, c'è la Gioconda di un italiano, di Leonardo da Vinci, la Nike di Samotracia, la Venere di Milo, tanto per citare alcune delle opere più conosciute. Insomma, il Louvre è il museo per eccellenza, quello più fissato nell'immaginario collettivo, e per qualche ragione anche qualcosa di misterioso nelle sue sale. Sono stati ambientati romanzi, film che hanno sfruttato, insomma, quest'aura di mistero che avvolge questo museo. Pensate al Codice da Vinci, per esempio. E chissà se questa atmosfera carica di segreto, di mistero, deriva al Louvre anche da quello che è accaduto anni fa. Forse qualcuno non lo ricorderà, ma è una vicenda che ha avuto una tale eco da rimanere intrappolata nelle pareti del Louvre, non è uscita mai più. Eh sì, perché c'è stato un tempo in cui per le strade di Parigi non si sentiva altro che una frase, un grido sordo e terribile che serpeggiava per le vie, che si infilava nelle case, che faceva tremare tutti di terrore. C'è un fantasma nel Louvre. C'è un fantasma al Louvre! Era questo lo strano grido che circolava quella mattina nel nostro Museo Nazionale. Si spandeva ovunque, dagli ingressi al pian terreno, verso le sale, su per gli scaloni, abbracciava ogni cosa. Alcuni ne erano spaventati, altri erano increduli. Tutti si sentivano in dovere di commentare quella strana e fantasiosa notizia. Un fantasma dentro al museo. Non si sa se è un fatto più di spavento, sensazione, ma quando la notizia varca l'androne dell'ingresso, si diffonde per Rue de Rivoli, attraversa la Seine, si srotola per tutta Parigi. Insomma, questo diventa l'argomento del giorno, ne parlano tutti. Ma cos'è successo? È successo che durante la notte, nel corso della ronda di controllo, una delle guardie del museo, un certo Gautret, ha visto qualcosa di terribile, una figura spettrale, sinistra, spaventosa, un fantasma vestito di nero da capo a piedi, con una maschera di cuoio sul volto, preceduto da un misterioso bambino. L'entità si è manifestata in prossimità della statua di una divinità caldea, il dio Belfagor. E a parte qualche studioso di mitologia o di religione antica, in realtà a Parigi nessuno sa chi sia questo Belfagor. È la principale divinità di diverse popolazioni semite del Medio Oriente, i Moabiti, i Caldei e Cananei. Belfagor inizialmente è identificato con il sole, con il nascere, però del monoteismo ebraico diventa una figura demoniaca da combattere, e nella demonologia cristiana è uno dei sette principi del l'inferno. La sua caratteristica è la capacità di attirare le anime degli uomini, promettendo loro geniali scoperte e invenzioni che li renderanno ricchi. Quindi succede ancora adesso questa trappola. Insomma, è il demone che rappresenta anche un altro peccato mortale, quello della accidia. Insomma, Belfagor è un diavolo, anche uno dei più temibili. Quindi se quello che circola per le sale del Louvre è il suo fantasma, c'è veramente poco da stare allegri. Ma sarà poi vero oppure questo Gautret ha avuto le travegole? Il direttore del Louvre pensa che si tratti di autosuggestione, anche perché Gautret in passato ha avuto problemi di alcolismo. Poi però accade un fatto nuovo. Poco dopo il primo avvistamento di Belfagor in una sala attigua, viene rinvenuto il corpo del capo dei custodi, Saburel, il corpo senza vita. E qui le cose cambiano, qui non c'è più una testimonianza di un uomo magari poco attendibile, siamo in presenza di un assassinio. La polizia arriva sul posto e deve constatare che si tratta di omicidio, però non ci sono tracce, non c'è un'impronta, un'orma, un qualsiasi elemento che possa ricondurre all'esecutore di questo terribile gesto. Insomma, l'assassino si è dileguato proprio come un fantasma. E tutta Parigi è sconvolta da questa vicenda orribile che si tinge del colore del sangue. E sì, perché il fantasma a questo punto non è un'entità evanescente, atta a impressionare persone già magari impressionabili. No, il fantasma è un assassino. Il commissario Menardier è incaricato delle indagini, è un uomo pratico che non si fa intimorire da questo alone di mistero che circonda l'assassino di Saburel. Per lui, se c'è un morto vero, ci sarà anche un omicida in carne e ossa. Intanto però la notizia è di dominio pubblico, tutti si domandano cosa si stia nascondendo nelle sale del Louvre, e tra i tanti che si interessano a questa vicenda c'è anche un ragazzo, si chiama Andrea Bellegarde, è uno studente di fisica, ha una predilezione, una predisposizione per i fatti strani e misteriosi, un po' all'animo dell'investigatore, è anche un tipo coraggioso che non ha paura di niente, insomma prende una decisione quantomeno discutibile, si nasconde nel museo per rimanere dentro oltre l'orario di chiusura, vuole passare la notte nelle sale deserte per sperare di vedere qualcosa di interessante con la tipica, come dire, incoscienza giovanile. Lui non crede a un fatto soprannaturale, ma quando mette in atto il suo piano scopre di non essere da solo nel museo che ormai è deserto, c'è anche una ragazza conosciuta poco prima nel parcheggio del Louvre. Signor Bellegarde, signor Bellegarde, dove si è nascosto? Chi è? La ragazza di poco fa. Che cosa fa qui? Non può restare qui dentro. E perché? Il fantasma, se l'hai dimenticato. Ma se è proprio lui che aspetto. Ah, senta, questa poi. E io che sono tornata per avvertirla. Che bella idea. Mi manderà tutto all'aria. Stia tranquillo, non resterò qui. Già, brava. Se esci ora avrò i guardiani alle calcagna. Non ci avevo pensato. Mi lasci riflettere. Certo è straordinario. Che cosa? Me ne sto qui, chiuso nel Louvre, a parlare tranquillamente con una ragazza sconosciuta. Sospetta che sia una complice di Belfagor? Non lo so. Lei ha troppa fantasia, signor Bellegarde. Non direi. Mi dia retta, è meglio che venga via con me. No. Ma che cosa si illude di vedere di tanto interessante? Voglio vedere e basta. La ragazza cerca di convincere Andrea Bellegarde ad andare via, ma lui non sente ragioni. Poi improvvisamente i due sentono un rumore. Prima vedono un bambino vicino alla statua del dio Belfagor. Poco dopo si materializza il fantasma in tutta la sua spaventosa spettralità. Belfagor aggredisce Andrea, che avrebbe sicuramente la peggio se non sbucassero come dal nulla alcuni poliziotti che evidentemente si erano nascosti anche loro nel museo. Come va questo ferito? Non ha niente di rotto, mi sembra. Se la caverà con una bella contusione. Meglio così. Sono il commissario Menardier. Mia figlia, Colette. Sì, Colette Menardier. Mi perdoni. È della polizia anche lei? Oh no, che dice? Le permetto di darmi una mano, ogni tanto. Mi ha preso in giro. È molto arrabbiato. Ve l'ho fatto scappare. No. Anzi, grazie a lei stavamo per acciuffarlo. E perlomeno possiamo dire di averlo visto. Già, ma intanto vi è sfuggito. Adesso però sappiamo che c'è davvero. Ed è già qualche cosa, no? Andate a prendere un caffè tutte e due, vi farà bene. E senta, signor... Signor? Bellegarde. Signor Bellegarde, la ringrazio per la sua collaborazione. Ma per quanto utile, preferisco farne a meno. Non si preoccupi, sono anche ferito. Insomma, Colette Menardier non era lì per caso, stava aiutando il padre nell'indagine e Andrea si è trovato nel bel mezzo di un'operazione di polizia. Lei voleva liberarsi, mandarlo via proprio perché sapeva che c'era un'operazione in corso, ma intanto i due ragazzi cominciano a frequentarsi, tra di loro c'è una simpatia che potrebbe anche trasformarsi in qualcosa di più se Andrea non incontrasse casualmente, o almeno così pare, un'altra donna che lo ferma per strada e gli chiede un autografo. E sì, perché Andrea Bellegarde è diventato famoso in tutta Parigi, parlano del suo incontro terrificante col fantasma del Louvre. In fondo lui è l'unico che può dire di averlo visto da vicino. Mentre sta camminando per strada, Andrea viene fermato da questa Luciana Borel, una donna bella, affascinante, un po' più grande di lui di età, che con la scusa di un autografo si mette a parlare con lui, lo invita a casa sua, e lei ha una casa meravigliosa, piena di oggetti d'arte bellissimi, è una donna misteriosa, intraprendente, pare abbia tutta l'intenzione di sedurre Andrea, lo affascina con le sue teorie sull'amore, poi gli fa una proposta piuttosto strana. Lui dovrà trasferirsi da lei, restare tutto il tempo che lei desidera senza avere contatti col mondo esterno. E Andrea ci casca, accetta perché Luciana è troppo bella e misteriosa, lui è talmente attratto da lei da non domandarsi se dietro a questo strano comportamento non si nasconda qualcosa di pericoloso. Insomma, Andrea sparisce dalla circolazione e Colette naturalmente si preoccupa, lo cerca, gli telefona, ne parla col padre e non sa come spiegarsi questa improvvisa sparizione. Nel frattempo il commissario riceve una telefonata misteriosa, la voce dice di essere Belfagor, lo invita a recarsi a un indirizzo in periferia. L'indirizzo corrisponde a una ricca villa di campagna e qui Menardier viene accolto da un'anziana signora che vive circondata da vecchi grammofoni. Chi è lei, signora? Lady Audley. Il mio nome non le dice nulla? Temo di no. Eppure è un nome che è stato piuttosto famoso ai miei tempi. Ma forse lei ricorderà il mio soprannome. Una volta mi chiamavano Lady Grammofono. Grammofono? Ho la mania dei grammofoni. Perché mi ha fatto venire qui? Perché devo rivelarle una cosa. Nell'attività di Belfagor non v'è nulla di riprovevole. Veramente? Né delitti, né furti, né cose del genere, niente. Lei dimentica l'assassinio di Saburel? No, io non dimentico l'assassinio di Saburel. Quando l'ho saputo ho sgridato severamente Belfagor. Una cosa assurda, non le pare? Stupida, ma in fondo non ha nessuna importanza. Lei crede? Oh, tutti i giorni qualcuno muore sulle strade. E allora? Oh, nessuno ne fa una tragedia. Lady Udvin, senza spiegare quali siano i legami che la uniscono a Belfagor, praticamente chiede al commissario di abbandonare le indagini, di mettere una pietra sopra l'omicidio del guardiano Saburel, di smetterla di indagare sul fantasma. Ovviamente il commissario non può, non vuole, non deve farlo, e allora l'anziana donna lo minaccia. Belfagor ha mostrato solo una piccola parte del suo potere, potrebbe colpire molto più in grande, molto più spesso, e poi quasi lo minaccia, gli dice: commissario, lei ha una figlia, pensi a lei. Menardier, però, l'abbiamo capito, è un uomo tutto d'un pezzo, è un poliziotto integerrimo, di sani principi, ovviamente non si lascia intimidire, così le indagini vanno avanti. In realtà dovrebbero andare avanti le indagini, perché stanno girando a vuoto, la polizia non sa che si nasconda dietro alla maschera di cuoio di Belfagor, non sa come faccia entrare e uscire dal Louvre, a scomparire senza lasciare traccia, e naturalmente né il commissario Menardier né i suoi colleghi credono alla faccenda del fantasma, sono tutti convinti che si tratti di delinquenti, di persone in carne e ossa, abili ma comunque reali. Tanto è vero che il commissario, che si preoccupa delle minacce di Lady Udvin, ha dato una scorta alla figlia e le ha chiesto di rimanere a casa per non correre rischi, però la ragazza riceve una telefonata da Andrea Bellegarde, che è riapparso dopo giorni senza aver dato notizie, così lei, che vuole rivederlo subito, ha questo impeto giovanile, elude la sorveglianza della scorta, lo raggiunge in un cinema, proprio mentre all'interno del cinema lei, Colette, subisce una misteriosa aggressione intimidatoria. Che è successo? Non lo so. Colette! Colette! Che è successo? Non ne ho idea. Come non ne hai idea? Non so, a un tratto sono svenuta. Ti hanno colpita? Non lo so, io non ho sentito niente. Andiamo a casa, presto. Sono preoccupato. L'aggressione a Colette convince Andrea che anche lui è in pericolo. Questo naturalmente però non lo frena dal proseguire nelle sue indagini. E intanto il commissario indaga su questa misteriosa Lady Udvin, scopre che ha avuto una vita burrascosa, che è stata una cantante di scarso successo, che ha ereditato una fortuna immensa dal marito, che è una delle donne più ricche d'Inghilterra, che non ha figli, quindi sembrerebbe sbagliata l'ipotesi del commissario, cioè che dietro Belfagor la donna protegga, non so, un suo erede, un figlio, un parente. Comunque lei per ora è l'unico legame col fantasma del Louvre. Il commissario decide di arrestarla, ma una telefonata del consolato britannico lo costringe immediatamente a rilasciarla. È evidente che Lady Udvin è una donna molto molto potente, è potente e pericolosa. Sulle ali di carta, i personaggi letterari del Falco e il Gabbiano. C'è un fantasma nel Louvre, un grido serpeggia per Parigi, sconvolge l'intera città. Nel più famoso museo del mondo c'è una figura sinistra che si aggira, un fantasma vestito di nero da capo a piedi con una maschera di cuoio sul volto, preceduto da un bambino. E l'entità si manifesta in prossimità della statua di una divinità, il dio Belfagor. Addirittura lo si ritiene il dio stesso un suo seguace. E non si capisce cosa voglia, cosa cerchi questo fantasma. Ma tutta questa storia, insomma, apparentemente più frutto di impressionabilità, di superstizione, in realtà diventa fatto concreto perché uno dei custodi del museo viene effettivamente assassinato in circostanze misteriose. La polizia quindi comincia a indagare. L'indagine è avviata dal commissario Menardier, che è un uomo pragmatico, integerrimo, che viene contattato dalla sedicente Lady Udvin, che è un'anziana ex cantante inglese che sembra sapere molto su Belfagor, sembrerebbe quasi un suo protetto. La donna minaccia apertamente il commissario che la smetta di indagare sul fantasma o sarà peggio per lui, e lo minaccia anche tirando in ballo la figlia del commissario, Colette, che peraltro subisce una misteriosa aggressione. Il commissario non si lascia intimidire, però Colette nel frattempo è attiva in questa storia perché ha conosciuto un giovane studente, Andrea Bellegarde, che è attirato anche lui dalla notizia del fantasma, comincia a fare delle ricerche per conto suo. E poi però Andrea viene avvicinato e sedotto da una donna bellissima, molto affascinante, Luciana Borel, e che anche lei sembrerebbe avere dei legami con Belfagor. È proprio lei che il commissario decide di interrogare. Sono il commissario Menardier. Lo vedo. Che cosa desidera? Farle qualche domanda. Nervosa? No, seccata. Ha inviato lei un pacchetto a quella signora? Che signora? Ah già, è vero, che sciocco, mi scusi. Lady Odwin. Naturalmente non l'ha mai sentita nominare in vita sua. Naturalmente. Sono indiziata? No, non intendevo affatto dire questo. Sono curioso di conoscere la sua personalità, strana e conturbante come il suo profumo. Non capisco soprattutto il suo atteggiamento verso Andrea Bellegarde, che lei ha fermato per la strada. Vede, se per esempio la curiosità di Andrea Bellegarde a noi a Belfagor, lei lo trattiene presso di sé. Questo certo nel caso che lei fosse complice di quel bandito. Capisco che è mezzanotte, l'ora delle fantasie e dei sogni, ma lei esagera. Un consiglio, metta Belfagor nel cassetto dei casi archiviati, sono i più tranquilli. Ancora minacce. Anche Luciana Borel consiglia al commissario di lasciar perdere le indagini su Belfagor. Cominciano a essere parecchie le persone che stanno nascondendo o proteggendo il fantasma del Louvre. E intanto Luciana porta Andrea a casa di un suo amico Boris Williams, un personaggio oscuro. Lei lo definisce nato a Leningrado, esploratore per i tedeschi, consulente finanziario per i francesi. È una serata strana a casa di questo Williams. Si parla naturalmente della notizia del giorno a Parigi, Belfagor. Williams sostiene che sia un'invenzione della polizia. Andrea Bellegarde ovviamente lo contraddice con forza, perché lui è stato vittima di un'aggressione, ha ricevuto un colpo in testa da un fantasma, quindi da qualcosa di ben concreto. Aggiunge che prima o poi il mistero verrà svelato e Belfagor smascherato, e Williams è molto contrariato dalla forza, dalla determinazione di questo giovane. E evidentemente gli dice: quel colpo in testa non ti è bastato. È una frase che suona come una pericolosa minaccia. Il mistero si infittisce, anche se le indagini sono a un punto morto. Qualcuno cerca di spaventare ulteriormente il commissario. Sua figlia Colette viene rapita, drogata, portata in cima alla Torre Eiffel con dei rapitori che cercano di buttarla di sotto. Alla fine, per fortuna, non ci riescono, la ragazza si salva, ma un biglietto che le hanno appuntato sul petto non lascia dubbi. Ultimo avvertimento firmato Belfagor, e il commissario va su tutte le furie, si arrabbia veramente, si precipita a casa di Lady Udvin e l'avvisa, e lei dice: se lei crede di fermarmi ha capito male. Le indagini proseguono, anzi ancora più serrate di prima. Dopo quello che hanno osato fare a sua figlia, il commissario è sicuro che rimarrà alle calcagna di Belfagor fino a quando non riuscirà ad acciuffarlo. E nel frattempo il custode Gautré fa una scoperta sensazionale. Il fondo di uno dei sarcofaghi esposti al Louvre è mobile, si abbassa come un ascensore. Però invece di dirlo al direttore del museo o alla polizia, lo dice Andrea Belgardi. Due di notte azionano il meccanismo di discesa all'interno del sarcofago, si trovano nei sotterranei del Louvre, praticamente il vecchio Louvre, quello che aveva fatto costruire il re Filippo Augusto ancora nel 1190. E qui di nascosto assistono a una scena misteriosa, raccapricciante. In una specie di laboratorio improvvisato vedono Belfagore, il bambino che lo accompagna sempre, stanno dormendo. Poi scorgono Boris Williams, l'amico di Luciana Borel, che si è iniettato in vena una soluzione strana, non identificata, e che si avvicina al fantasma. Le sue parole rivelano la vera motivazione che lo lega a Belfagore. Tra poco, Belfagore, il tuo spirito si sveglierà di nuovo. Alla mia volontà che ti trasmetto si aggiungerà il filtro, l'estratto di erbe, tramandato da secoli al Gran Maestro dei Rosa Croce. Ti renderà sensibile alle radiazioni segrete dei metalli. Ti rivelerà quello che noi vogliamo sapere. Apri gli occhi. Guarda, anche questa volta Belfagore non fallirà. Ricorda, Belfagore, devi evitare la violenza. Va adesso, Belfagore, e riportaci il segreto. Insomma, avete sentito, attraverso delle pozioni magiche tramandate addirittura dai Rosa Croce, e con questo intervento di questo Williams, Belfagore diventa sensibile ai metalli. Probabilmente Williams e i suoi complici stanno cercando qualche tesoro, qualcosa di nascosto nel museo. Addirittura Belgarde sospetta che possa trattarsi del mitico metallo di Paracelso, e difatti poco dopo i due risalgono nel Louvre e assistono a questo strano fenomeno: la statua del dio Belfagore che viene attivata dal fantasma e diventa radioattiva. E poi il fantasma fugge. Belgarde decide di tornare di nuovo nei sotterranei per indagare, e il guardiano non vorrebbe lasciarlo andare da solo. Alla fine si convince che qualcuno debba restare in caso succeda qualcosa di brutto. Così Andrea Belgarde dà appuntamento a Gautré di lì a un paio di giorni e sparisce nel sarcofago. Però i giorni passano e del giovane non si sa più niente, si è volatilizzato nel nulla. Sulle ali di carta, i personaggi letterari del Falco e il Gabbiano. Quando Andrea Belgarde ricompare dopo diversi giorni, è fortemente impressionato da quello che ha visto nei sotterranei del Louvre. Inizialmente non vuole parlarne, è rimasto colpito da questi risvolti pseudofilosofici dei Rosa Croce, ma il commissario Menardier, che è molto più pratico di lui, decide di usarlo come esca. Fa pubblicare su tutti i giornali di Parigi un articolo che parla della vicenda e annuncia che Andrea Belgarde è in procinto di rivelare grandi segreti scoperti nel corso delle sue indagini private. E lo scopo è evidente: appostarsi fuori dalla casa di Belgarde e sperare che qualcuno della banda di Belfagore si faccia vivo. La figlia Colette però ormai è innamorata di Andrea, e quando scopre il piano del padre si spaventa, teme per la vita del suo innamorato, e lo avvisa e lo fa fuggire. Padre e figlia hanno un colloquio chiarificatore. Il commissario dovrebbe arrabbiarsi perché Colette si è intromessa nelle indagini della polizia, ma capisce che la ragazza è veramente innamorata. Non la sgrida, la mette in guardia, perché secondo lui Andrea è però invaghito di Luciana Borel, la misteriosa donna che l'aveva attirato in casa sua. Colette naturalmente non vuole farsi da parte, anzi vuole stare al fianco di Andrea in questa vicenda che sta diventando sempre più pericolosa per entrambi. In realtà qualcuno veglia segretamente sui due giovani, che strano a dirsi, quel qualcuno è proprio l'anziana signora Lady Hoodwink, che ritiene troppo violenti i metodi dei seguaci di Belfagore, ma fa l'errore di parlarne con la persona sbagliata, cioè con Boris Williams. Scusi, ma mi deve spiegare una cosa. Quale, caro Williams? Ma come? Noi facciamo di tutto per mettere le mani su quel ragazzo e lei invece ha intenzione di proteggerlo. Sì. Ma può rovinarci. Come fa a dirlo? Ci ha visti nel sotterraneo. Sa che ci siamo impadroniti del metallo. Avete allagato tutto. E a che cosa serve, visto che c'è un testimonio che potrebbe parlare da un momento all'altro? L'avrebbe già fatto. Non è detto. Forse la scoperta potrebbe averlo sconvolto. E allora? Adesso non sa ancora che fare. ma da un momento all'altro può denunciarci. No, no, saremo tranquilli soltanto quando lo avremo sotto controllo. So come intende controllarlo e non mi piace affatto. E qui c'è una profonda spaccatura all'interno di questa organizzazione criminale che fa capo a Belphegor, perché Williams ha metodi che non vanno a genio a Lady Udvin. Il colloquio tra i due prosegue, i rapporti si esasperano e alla fine si scopre anche qual è il legame tra quest'uomo e questa donna. Però finirà per prevalere, come sempre, l'avidità. Niente deve avvenire che faccia soffrire il commissario. Il commissario? Sì. Cara Milady, questa è difficile da mandar giù. Ma è così. E perché il commissario Menardier ha una rassomiglianza con qualche suo ricordo, noi dobbiamo rischiare la pelle. Oh, la pelle, che esagerazione. Attenta, Milady, non è il momento di scherzare. Finora abbiamo sopportato le sue impennate. Erano seccanti e basta. Ma se diventassero pericolose, tutto cambierebbe. Nessuno di noi è disposto a fare le spese dei capricci di una vecchia. Ritira questa parola. La supplico ancora una volta. Cambi idea. Altrimenti? Mi vedrei costretto a mettere anche lei sotto controllo. Cerchi forse di spaventarmi? Dovrei forse aver paura di mio figlio? Figlio, per modo di dire. Perché? Un figlio clandestino, mai confessato. È una fortuna per te. Posso proteggerti senza comprometterti. D'ora in poi me la sbrigherò da solo. No, da solo no, Boris. Ricorda che se non sono con te, io sarò contro di te. Può essere un gioco pericoloso. Sì, sarà lei la prima ad accorgersene. E Boris Williams strangola Lady Udvin, che abbiamo scoperto essere sua madre, la uccide senza pietà. È un assassino doppiamente efferato, che ci fa capire di che pasta sia fatto quest'uomo, quanto sia pericoloso e senza scrupoli. Il commissario Menardier, col fiuto tipico del poliziotto consumato, ha questa intuizione che si rivelerà fortunata, perché secondo lui Luciana Borel ha qualcosa di misterioso, può avere a che fare col fantasma. Va a trovare i suoi genitori, scopre due fatti importanti. Il primo è che Luciana ha una sorella gemella, Stefania, che però risulta scomparsa. L'altro fatto è che il padre, che è un collezionista di antichità, abita in una casa appartenuta a Cagliostro, e tempo prima ha trovato un vecchio documento di Rosa Croce che menziona un tesoro nascosto nel Louvre. Tramite Luciana questo documento è arrivato fino a Williams, che si è messo in testa di trovare il tesoro. E di fronte all'omicidio di Lady Udvin, alla pergamena dei Rosa Croce, Andrea, che tra l'altro è scampato anche lui a un altro attentato, finalmente decide di parlare, conferma i sospetti del commissario. Si tratta dei Rosa Croce, o meglio di delinquenti comuni che si fingono Rosa Croce, in realtà vogliono solamente sfruttare le informazioni che hanno ottenuto casualmente per rubare dentro al Louvre. Andrea Bellegarde si sente preso in giro da Luciana, ma lei non sa chi si nasconda sotto la maschera di Belphegor, sa solo che il fantasma agisce in stato di ipnosi sotto l'effetto di un farmaco antico. In pratica diventa come un radar in grado di trovare il famoso metallo di Paracelso. Confessa anche Andrea che Williams cerca il metallo solo per scopi economici, e c'era da aspettarselo. Messo alle strette dalle indagini che gli stringono attorno come una morsa, Williams mette in scena una manovra eversiva, fa in modo che la polizia catturi un falso Belphegor. Sotto la maschera del fantasma, infatti, si nasconde Stefania, la gemella di Luciana, che è sempre stata con Williams e che si è prestata a questa farsa per proteggere qualcuno. Ma chi? Nessuno crede che Belphegor sia lei. È evidente che è una messa in scena di Williams. Nel frattempo Luciana ha capito di essersi innamorata veramente di Andrea, vuole aiutarlo, vuole farsi dire da Williams chi sia il vero Belphegor. Per questo lo segue in un castello fuori città, nel suo covo, dove l'uomo ha realizzato il mito del fantasma del Louvre. I due discutono, litigano, alla fine Williams le rivela la verità. È Belphegor che dovrà pagare, io non sono che una tua complice. Belphegor non pagherà un bel niente, è al sicuro lui. Questo non è giusto, è un essere spregevole. Attenta, Luciana. È un essere ignobile e spregevole, freddo, spietato. Una macchina per uccidere. Con tutta la tua mania di grandezza, perché perdi tempo con me? Lasciami in pace. Segui la tua strada. È proprio questo che è impossibile. Perché? Perché Belphegor sei tu. No. Sei tu. No, lo saprei. Il filtro e l'ipnosi ti fanno dimenticare tutto. Non resisti al loro effetto combinato e ogni gesto sembra compiuto da te. E adesso? I tuoi insulti a chi li rivolgi? In apparenza almeno tu hai agito peggio di me. No. Sei certa di conoscerti bene? C'è in te un'inclinazione della quale non ti rendi conto. Sei stata tu a uccidere Saburelli, io non te l'avevo chiesto. Sei stata tu ad aggredire Andrea. No, è stato Belfagor e lui non può agire senza il tuo intervento. Non ti illudere, tu in realtà non lo conosci. Io l'ho risvegliato, è vero, ma adesso è lui che comanda. Quella forza misteriosa che all'improvviso ti invade, ti trascina e ti ha ormai avvelenata è Belfagor. Il mistero è svelato, Belfagor è lei, è Luciana, e la donna è sconvolta ovviamente da questa rivelazione, non riesce a sopportare il peso di tutto quello che lei ha fatto succedere, non si rende conto di essere stata solo un fantoccio nelle mani di Williams che ha fatto di lei quello che ha voluto, l'ha usata per i suoi traffici, è disperata, è sopraffatta dai rimorsi e dall'orrore, Luciana si toglie la vita. Belfagor non vagherà mai più per le sale del Louvre. E ci sono colpi d'ala che uno compie senza rendersene conto, anche colpi d'ala terribili come quello di Luciana, che poi ha dovuto guardare in faccia l'orrore da lei stessa commesso. E ognuno di noi nella sua vita può cadere, può anche dare un colpo d'ala che lo porti a volare in alto, più in alto dei sotterranei del Louvre. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it e volate sulle ali di carta con noi. Ciao, a domani. Sulle ali di carta, i personaggi letterari del Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.